piacerebbe tanto potrò parlarti d'amor. M'hai detto una sera ritornerò, è primavera ma tu non torni ancora. Io ti aspetterò, sto sognando, un po' cantando, la ninna nanna al mio cuore. Nulla del nostro amore, il tempo cancellò, sei sempre nel mio cuore, e mai distrutto.